9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un buon Befana, un buon 6 gennaio 2010 da parte di Oscar Giannino. Coincidenza nella mia vita in qualche maniera significativa è che la Befana coincida poi col compleanno di mia madre, e voi capite bene che si è compenetrati nello spirito della festa quando fin da piccoli si celebrano due feste insieme. Approfittando di questa Befana, ho deciso oggi insieme a voi ascoltatori di interrogarci su un tema che mi ha molto colpito, su un libro che recentemente, nelle ultime settimane, mi è passato per le mani, l'ho divorato e mi sono fatto una domanda. E questa domanda io ve la giro oggi. La domanda è, vedrete di che cosa si tratta, adesso ve lo sintetizzo all'inizio come sempre faccio all'inizio di ogni trasmissione, ma la domanda è: ma insomma, come mai questo libro non provoca un diavolo di discussione e non si strappa di prima pagina in prima pagina per quello che c'è scritto? Perché la mia opinione è che io mi sarei aspettato esattamente questo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un libro che affronta quanto sta emergendo grazie alla ricerca scientifica. Ripeto, oggi noi non parliamo di fede, parliamo di un tracciato storico, fatto documenti alla mano, fatto con nuove tecnologie di diagnosi dei reperti storico-archeologici alla mano. E in questo libro si fa un punto sullo stato degli atti della ricerca intorno a un particolare. Cioè intorno a un'ipotesi di lettura, di interpretazione di caratteri di tre lingue diverse, greco, aramaico, latino, che negli ultimi anni, grazie all'affinarsi delle metodologie scientifiche, noi abbiamo, gli scienziati che se ne occupano, hanno visto emergere impresse nel telo di lino custodito a Torino, noto più come la Sindone, e questi caratteri in tre lingue impressi nella parte di quel telo di cotone noto come la Sindone, che corrisponde a quella parte del telo dove è impressa l'immagine di un volto, che è stato impresso nel telo da una diffusissima e copiosa emissione di sangue. Sangue che è sangue, perché le ricerche scientifiche ne hanno identificato il gruppo sanguigno, AB, eccetera, eccetera, cioè non è opera di un pittore, a qualunque epoca si pensasse che appartenesse a qualcosa. Ecco, in la parte di quel telo corrispondente all'immagine del volto ci sono lettere in tre lingue, lo ripeto, greco, aramaico e latino, e di anno in anno è stato possibile affinare la metodologia attraverso cui dare una lettura sempre più univoca innanzitutto di quei caratteri in quelle tre lingue. E oggi è uscito, da poche settimane, un libro di una studiosa straordinaria che è il nostro ospite, che per la prima volta dà un'interpretazione aperta, quindi come sempre capita nelle discipline della storia, dell'archeologia, della paleografia, della diplomatica, a interpretazioni e confronti aperti con tutta la comunità degli studiosi scientifica, però dà un'interpretazione intorno alla data, intorno all'identità e intorno al motivo della condanna che portò all'esecuzione del corpo custodito in quel telo. E allora voi capite che la mia banalissima, personalissima impressione è che se ci troviamo di fronte a un reperto storico che ci consegna una data, un nome, il motivo di una condanna a morte e una specie di documentazione ufficiale apposta su quel telo, di cui resta traccia su quel telo attraverso alcune lettere, nelle lingue usate all'epoca da chi si occupava di seguire i procedimenti burocratico-amministrativi relativi alle messe a morte e alla custodia sepolcrale dei messi a morte, e se da questa data, da questa identità e da questo motivo di questa esecuzione c'è qualche cosa che vedremo essere la tesi sostenuta dall'autrice di questo libro, la mia opinione è che dovremmo occuparcene come uno dei più importanti eventi su cui confrontarci. Lo dico, ripeto, fine della mia introduzione, dal punto di vista storico non è un libro che parla di fede, non è un libro che parla a coloro convinti che la Sindone abbia custodito il corpo di Gesù Cristo. Ricordo tutti anche che la Chiesa Cattolica non ha mai detto, si è sempre ben guardata dall'affermare che la Sindone sia altro che un'icona venerabile, non si è mai, tra virgolette, espressa intorno alla assoluta veridicità del fatto che quel telo di cotone sia stato avvolto intorno al corpo di Cristo. E fine della mia introduzione ricordando a tutti che la comunità scientifica si è fermata sostanzialmente nel procedere dei suoi moltissimi esami interpretativi intorno alla storia della Sindone, alla sua storicità, alla lunga tradizione in cui è attestato la sua esistenza, perché tutti ricordiamo che un paio di decenni fa ci fu un'attribuzione dell'età della Sindone fatta con un metodo, quello del carbonio 14, per cui per alcuni anni si ebbe l'impressione che fosse un falso medievale. Solo successivamente, grazie a proprio una riflessione scientifica intorno a come fu svolto gli esami con il carbonio 14 su i brani, i pezzi del telo sindonico sottoposti all'esame scientifico, si capì che quell'esame di datazione era stato condotto malamente, senza rispettare alcune elementari condizioni senza le quali l'esame di datazione con l'isotopo al carbonio può portare a sbagliare clamorosamente data. Da quel momento in poi tutto è ricominciato, perché l'interrogativo è rimasto. Ecco, io vi presento oggi i nostri ospiti, dopo aver impropriamente introdotto il tema della trasmissione. Di quale libro stiamo parlando? Stiamo parlando di un libro che si intitola La Sindone di Gesù Nazareno, e l'autrice è con noi, è Barbara Frale. Buongiorno dottoressa Frale. Buongiorno. Ecco, Barbara Frale lavora come ufficiale all'Archivio Segreto Vaticano, è una storica che da molti anni si è inoltrata tra i tanti terreni di cui si occupa su un filone che l'ha condotta a imbattersi in questo filone di approfondimento. Il filone era quello dello studio dell'approfondimento di tutti gli incartamenti relativi al processo dell'Ordine dei Templari, Ordine dei Templari che viene trattato dall'informazione alla Giacobbo, per intenderci, con questo nome, come se fosse una specie di solito simbolo dell'esoterismo, che chissà quali segreti custodiva, eccetera eccetera. Ecco, la dottoressa Frale ha condotto studi approfonditi proprio sugli incartamenti di quel processo attraverso la ricostruzione del processo che porta alla distruzione, insomma alla sospensione dell'Ordine dei Templari per via del fatto che la corona francese voleva impadronirsi dei suoi bei tesori e dare una bella botta al Papa, si imbatte in questo filone che l'ha portata poi in un successivo libro, perché il primo è dedicato ai Templari del 2004, un successivo libro uscito anch'esso poi nel 2009, I Templari della Sindone di Cristo, a ricostruire un'ipotesi storica per la quale la Sindone, oggi custodita a Torino, viene tra virgolette ricondotta a un filone continuo di attestazione storica dal V secolo prima ed essa in Turchia, poi dal IX secolo a Costantinopoli custodita nelle icone sacre del Sacro Romano Imperatore d'Oriente, tutto attestato, viene ricostruito come questa sindone corrisponde al Mandilion, eccetera eccetera, con immagini storiche di quegli anni, fino a che poi con la caduta a Costantinopoli, quarta crociata 1204, e l'ordine templare a tra virgolette impadronirsi di questo telo, e questo telo compare poi una cinquantina d'anni dopo in Francia della messa al rogo degli ultimi ufficiali dell'ordine templare, e ricompare in una chiesa collegiata Liré donata da un cavaliere che porta lo stesso nome di uno degli ultimi ufficiali dell'ordine templare. Quindi c'è una catena ininterrotta di continuità, per cui poi quel telo, la Sindone, dopo pochi altri decenni viene acquisito dai Savoia. E quindi questa linea di ricostruita questa linea di continuità, Barbara Frale ci regala quest'altro libro in cui oggi invece parliamo dell'ipotesi di questi caratteri e dell'interpretazione di questi caratteri che sul volto impresso sulla Sindone in tre lingue dicono che cosa. Ecco, adesso passo la linea a lei per dire cosa, ma passo e vi presento anche un altro ospite che insieme alla dottoressa Frale ci aiuta in questo percorso. È con noi il professor Pierluigi Baima Bollone, che è professore emerito di medicina legale all'Università di Torino. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, a tutti. per chi si occupa di sindone, il professor Manuel Bollone è colui il quale ha avuto più possibilità storicamente e scientificamente, vorrei dire proprio con un termine improprio, di mettere le mani sulla sindone, di compiere esami nella sua assoluta professionalità di anatomopatologo e di esperto in medicina forense, che hanno consentito la ricostruzione scientifica di quello che ci dice ciò che c'è sul telo intorno a ciò che è capitato al corpo che è stato custodito. Allora, professoressa Frale, mi scusi di tutte le improprietà da me compiute presentandola. Arriviamo subito al dunque. Queste lettere nelle tre lingue, che cosa direbbero secondo ciò che lei scrive nel suo corposo libro? Beh, intanto di cose improprie mi sembra che veramente non ne abbia detta alcuna. Ora, venendo a queste scritte, innanzitutto dobbiamo precisare che, pur essendo stata presentata come una grande novità, la questione delle scritte è veramente roba vecchia, perché cominciarono ad essere notate addirittura nel 1978 e il primo che si mise a studiarle era il professor Aldo Marastoni, un docente di letteratura antica all'Università Cattolica di Milano. Quindi questo studio nasce in ambito accademico, potremmo dire ai massimi livelli, perché il Marastoni era un esperto latinista e lui si occupò in particolare di una scritta che si trova in verticale lungo il volto, e questa scritta dice in nece, è latino e ha una forma molto particolare delle lettere che noi ritroviamo sui graffiti di Pompei, quindi graffiti per forza di cose anteriori all'anno 79, ma la ritroviamo anche in alcune scritture di papiri che sono stati scritti nell'epoca dell'imperatore Tiberio, quindi in anni assolutamente vicini a quelli in cui secondo i Vangeli accadde la crocifissione di Cristo. La scrittura in nece è latino popolare o anche usato nel gergo giuridico giudiziario e significa a morte, e secondo gli esperti di diritto romano che si sono applicati a studiare il processo di Gesù, Ponzio Pilato in realtà non emise una vera e propria denuncia contro Gesù, la denuncia doveva venire a monte e il processo romano cominciava soltanto con un documento scritto di denuncia e il governatore poteva dare il suo assenso, mettere una specie di visto, oggi lo chiameremmo così, su una denuncia già sancita, e questo invece rappresenterebbe appunto il visto del governatore romano alla sentenza che era stata già proposta dal Sinedrio. E il Sinedrio, all'interno di questi cartigli che erano stati messi intorno al volto del condannato, è rappresentato da un'altra striscetta di papiro la quale conteneva un testo in aramaico. Queste scritture sono trasferite, noi ne abbiamo tanti esempi nell'archeologia, cioè non possediamo più i cartigli originali ma abbiamo soltanto l'impronta che le loro scritture per via di processi chimico-fisici hanno lasciato proprio sul telo del lino. E questo testo in caratteri aramaici si vede bene che conteneva diverse righe di scrittura, probabilmente 9 o 10, ma riusciamo a leggere soltanto la parte centrale per ora, e questa parte centrale porta la parola trovato. Poi c'è un'altra parola vicina che si legge in maniera meno chiara e può significare o perché, quindi sarebbe perché trovato, oppure noi, quindi sarebbe noi abbiamo trovato. Ed è molto singolare il fatto che il Vangelo di Luca riporta il testo della denuncia con cui il Sinedrio presentò Gesù a Ponzio Pilato come criminale con la richiesta di condannarlo. Il testo della denuncia del Sinedrio diceva proprio: noi abbiamo trovato quest'uomo che sobillava il popolo. Noi sappiamo anche che gli autori antichi usavano per l'evangelista Luca una parola diversa rispetto a quelle che utilizzavano per gli altri evangelisti. Lo definiscono con il termine di historesas, che in realtà è un verbo e significa colui che scrive di storia. È un termine che si può applicare benissimo a Tacito o per esempio Tito Livio, quindi avevano la percezione chiarissima che Luca avesse utilizzato delle fonti scritte, oltre che naturalmente fonti oculari, testimoni appunto oculari della crocifissione di Gesù, e questo è una catena estremamente significativa di indizi. Poi ci sono altre scritture che sostanzialmente fanno il giro del volto, in quanto questi cartigli erano sistemati più o meno come la cornice di un quadro. C'è un'altra scritta che corre in verticale, la quale dice Nazarenos, e poi un'altra sotto il mento che dice Jesus, e questo è il nome della persona avvolta nel lino, in greco Gesù Nazareno. Dobbiamo tenere presente che la lingua originale di questa gente era l'aramaico, un dialetto molto comune e popolare dell'ebraico, e quindi se vogliamo proporre un'ipotesi di lettura, di ricostruzione per il nome originale di quest'uomo nella sua lingua nativa, probabilmente suonava Yeshua Nazarani, ed è comunque un nome, come dire, non qualunque, per carità, è vero che bisogna, per una ricerca storico-archeologica seria, tralasciare tutte le questioni di fede che appartengono ad un altro ambito, ma comunque questo è un nome che fa impressione. Un nome però del resto attestato in tante altre fonti storiche, non solo i Vangeli apocrifi, che hanno comunque una loro base storica dimostrata, ma soprattutto la testimonianza di Tacito, il quale parla appunto proprio della nascita del cristianesimo da una persona chiamata Cristo. Tacito era informatissimo sull'origine del cristianesimo perché era stato fatto membro di un organo romano, un collegio sacerdotale, che si occupava di controllare ed eventualmente, come dire, tenere sotto controllo anche la nascita e lo sviluppo a Roma di religioni orientali. Quindi Tacito aveva accesso alle fonti d'archivio di Roma, sicuramente quelle del Senato, perciò era un uomo che poteva attingere a fonti di prima mano. Abbiamo poi altre scritte, sempre intorno al volto di questo condannato a morte, che dicono, secondo quello che possiamo vedere oggi, opse chiato, significa deposto all'ora nona. Opse è un avverbio molto usato sia nella Bibbia sia nei Vangeli, e c'è proprio il precetto di deporre i condannati a morte prima che finisca il giorno. Questo precetto è imposto dal Deuteronomio. Il corpo del condannato a morte è impuro ed è in grado di contaminare sia il cielo che la terra, quindi deve essere assolutamente rimosso dalla croce prima che arrivi la fine del giorno, e il limite del giorno è appunto il tramonto, che in greco si dice opsè. Poi ci sono altre due scritte in verticale sopra la fronte, Iber, che ha proprio l'aria di essere quanto resta del nome dell'imperatore Tiberio, scritto in greco, quindi probabilmente integrato era Tiberiu, e poi c'è una cifra costituita da due caratteri. È un iota e una lettera dell'alfabeto greco, che in realtà non si usava mai nello scrivere le parole, serviva come numero, e la cifra è 16, quindi l'insieme rappresenta una data che si legge, secondo quanto siamo abituati a fare in base alle fonti greche antiche, sedicesimo anno del regno di Tiberio, ed è l'anno 30. Anche questo è singolare perché in base ai dati cronologici presenti nei Vangeli, gli storici hanno sempre sospettato che la crocifissione di Cristo sia avvenuta nell'anno 30. C'era anche un'altra data possibile, il 33, in base a dei calcoli che si fanno per via del fatto che il calendario ebraico è un calendario lunare, non è un calendario solare come il nostro, quindi sono due anni che hanno entrambi la possibilità di essere anni utili per la crocifissione di Cristo, ma certo, se quello è veramente una cifra e corrisponde a 16, a questo punto i nostri dubbi, insomma, non avrebbero più molto senso di esistere. Infine c'è un'altra scritta, anch'essa estremamente interessante, in caratteri greci si legge Ada, probabilmente era quanto restava della parola Adar, che è un mese dell'anno ebraico. Ora, noi sappiamo che secondo la legge ebraica, la quale è attestata da fonti antiche, i corpi dei condannati a morte dovevano rimanere per un tempo legale di 12 mesi in una sepoltura pubblica. Non potevano essere consegnati alla famiglia, perché riposare nella tomba dei propri antenati era per un ebreo un riconoscimento di onestà, di giustizia, quindi un grande premio dopo la morte. Allora i condannati a morte non avevano diritto di usufruire usufruire di questo premio, dovevano scontare una pena post mortem che era, come dire, una fonte di vergogna per loro e per la famiglia stessa. Andavano all'interno di questo sepolcreto pubblico che era chiamato la tomba dei figli del popolo e rimanevano lì per un termine legale, 12 mesi, che era considerato, almeno a livello ideale, utile a che la carne, sede del peccato e quindi sede anche della impurità capace di contaminare, fosse ormai dissolta o avesse perduto il suo carattere contaminante, per cui poi le ossa o quanto restava diventate pure potevano essere restituite alla famiglia. E se noi facciamo i conti con quello che è il calendario lunare dell'antichità giudaica, che aveva in certi anni 13 mesi, ci accorgiamo che il corpo di Gesù che è stato deposto nel giorno di Nisan dell'anno 30, quindi in corrispondenza della Pasqua ebraica, secondo quanto dicono i Vangeli, aggiungendo 12 mesi della prescrizione legale di questa pena post mortem, doveva essere restituito proprio nel giorno corrispondente del mese di Adar Sheni, che era una specie di mese bisestile. Quindi quello che noi leggiamo sulla sindone ha grosse probabilità di essere quanto resta di una data, quindi la data di Adar Sheni, in cui i resti di quel condannato avrebbero dovuto essere restituiti ai parenti. Allora, la interrompo per fare una sintesi di questa prima parte della trasmissione, ho voluto che parlasse solo lei. Per chi è in ascolto, creda o non creda, non stiamo parlando di questo. Si tratta di leggere i caratteri in queste tre lingue, impressi, vedremo come, sul volto, impressi attraverso la parte esterna del volto che copriva, della parte del telo che copriva il volto del corpo che custodiva, ma questi testi ci direbbero, ci dicono, ci sono le fotografie sul libro, invito tutti a immaginare che non ce li stiamo inventando, la dottoressa, la professoressa Frale, come tutti gli scienziati che si sono accaniti nel tentare di leggerli sempre più chiaramente attraverso tecnologie sempre più fini che ci consentono di leggere attraverso il telo, ma questi caratteri ci direbbero un nome, e questo nome è Gesù Nazareno, ci direbbero una data che corrisponde a quell'aprile dell'anno 30, visto col nostro calendario, in cui la tradizione direbbe che c'è stata quella condanna a morte proprio di quel Gesù Nazareno che viene associato di solito al cristianesimo. Ci dicono che c'è un atto, questo atto è quello del Sinedrio che lo manda di fronte a chi esercitava il potere di Roma, e ci dicono quindi una serie di circostanze tali storicamente da interrogarci molto approfonditamente se davvero non siamo di fronte alla prova provata che attraverso un pezzo di carta messo da un ufficiale dello Stato civile all'atto della sepoltura di quel corpo, prima che qualunque cosa sia avvenuta a quel corpo custodito in quel telo, lì c'è impresso la prova storica, per così dire, che tutto quello che noi sappiamo essere storico della figura storica di Gesù, però è anche relativo esattamente alle circostanze, al tempo e al modo della sua messa a morte. A me davvero non pare poco per creare una grande discussione. Eccoci tornati in studio. Era caduta la linea col professor Bame Abbollone e spero che sia tornato con noi. Professore? Eccoci. Senta, ci rinfresca un secondo. Teniamo conto che naturalmente il nostro pubblico non è di addetti ai lavori, non ha letto tutte le sue preziosissime opere. Molto spesso, lei lo sa perché se ne occupa da decenni, ha l'idea che la sindone sia qualcosa legata semplicemente a culto popolare, ma a contraffazione, eccetera, eccetera. Allora, ci dice invece dal punto di vista anatomopatologico che cosa la sindone ci ha detto attraverso gli studi di scienziati come lei, di quel corpo, di quel sangue, di quello che è avvenuto alla fisicità corporea che quel corpo e quel telo ha coperto? I caratteri sono quelli di un lenzuolo funerario che prima è stato messo sotto un certo cadavere, che noi per ora chiamiamo quello dell'uomo della sindone, poi gli è stato ribaltato al di sopra e rincalzato ai piedi. Al dispiegamento si vedono da un lato l'immagine della parte anteriore e dall'altro quella della parte posteriore. Tradizionalmente nel questo lenzuolo funerario verticalizzato di fronte a noi, la parte anteriore è a sinistra e la parte posteriore è a destra. Con questa premessa si tratta certamente della immagine di un cadavere, perché tali sono i caratteri che emergono dalla rigidità, che non può essere che rigidità cadaverica, dalla posizione innaturale mantenuta dalla rigidità e che richiama quella di un crocifisso, e ancora per il fatto che esiste una ampia lesione all'emitorace destro, dal quale è colato un sangue non più vitale, lesione che peraltro non era suscettibile di un intervento terapeutico all'epoca alla quale ci stiamo rapportando. Quel cadavere che ha riportato dopo la morte la lesione di cui ho detto, quando era ancora in vita, ha patito una serie di altre lesioni riferibili alla flagellazione, riferibili alla apposizione di una corona, anzi di un casco di spine sul capo, e ancora un inchiodamento alle quattro estremità compatibile con la posizione del crocifisso. Questa è la somma di ciò che si osserva su questa struttura corporea, prima viva e poi deceduta, di un soggetto snello, di alta statura, un tipo semitico che ancora oggi si vede in alcuni territori. Oh, professore, a seguito dell'episodio che ho ricordato introducendo la trasmissione, quello della datazione errata, diciamo così, fatta con il carbonio 14, immediatamente i nostri ascoltatori chiedono, dicendo: vabbè, ma se si tratta allora di una metodologia errata seguita, basta fare un altro prelevamento e seguirne una corretta, altrimenti, dicono alcuni dei nostri ascoltatori, il fatto che non si faccia e si dica solo che è sbagliata potrebbe essere ampiamente creduto come un semplice modo per rifiutare una conclusione scientifica che è incongruente rispetto a chi sostiene che quello è un telo che risale esattamente al primo secolo, come state dicendo, eccetera eccetera. Da questo punto di vista, pur non essendo questa specificamente la sua disciplina, lo so, però la prendiamo un po' come un testimone della ricerca pluridecennale su questo, che cosa osterebbe a fare un nuovo prelievo per fare una nuova datazione che metta tutti d'accordo, innanzitutto per come viene seguita la metodologia? E dunque, è necessario che la proprietà decida di ripetere l'esame, ma io credo che se la richiesta di ripetere l'esame non fa una grinza dal punto di vista logico, si debba tener conto anche del fatto che come si fa a ripetere un esame che è fallito se non si conoscono esattamente le ragioni per il quale esso è andato male. Sarebbe molto semplice se i laboratori che hanno eseguito l'esame, tre laboratori per l'esattezza, accettassero la richiesta del committente, del proprietario, che è stata fatta e ripetuta e sempre disattesa, di ottenere i dati brutti che sono stati calcolati per fare una nuova elaborazione. Allora, se l'errore fosse a quel punto, sarebbe abbastanza semplice mettere a posto le cose e non più necessario fare un altro prelievo. Allora, di fronte a questa opposizione, mi pare che si sia creata nei tempi passati una situazione di stallo. Io non so che cosa potrà decidere in futuro chi lo può fare. Certo però che fare un altro esame al buio rappresenta oggettivamente un rischio. Professore, posso chiedere all'inizio del suo percorso di approfondimento di ciò che dalla sindone emerge come reperto, come e se questo ha cambiato in qualche misura anche privatamente il suo rapporto con la figura storica di Gesù Cristo? La domanda investe il problema di come ho iniziato a occuparmi di sindone. Allora, Nel 1976-77 ero un medico legale che si interessava della ricerca di tracce, delle tracce più minute. Allora si incominciarono a chiamare microtracce, e nel caso di sangue. E allora mi si chiese che cosa avrei fatto materialmente in laboratorio per dimostrare che le macchie che la tradizione religiosa e popolare sosteneva essere di sangue presenti sulla sindone erano veramente tali. Scrissi qualche cosa, feci qualche proposta, poi qualche anno dopo, nel 78, venni messo nelle condizioni di fare alcuni prelievi da punti che avevo indicato in precedenza e di fare le mie ricerche, sulle quali dimostrai che si trattava di sangue, che era sangue umano, che aveva un certo gruppo, e poi con altri specialisti tentai la prima determinazione del DNA. Le devo dire che sono stato il primo a fare tutto ciò su prelievi ufficiali e che tutte le mie ricerche, che è sangue umano, che è un certo gruppo, sono state confermate. E non è poco, visto che eravamo all'inizio degli anni 70, c'era ancora chi sosteneva che il telo sindonico potesse essere prodotto da mano umana, potesse essere l'effetto di qualche tecnica particolare. Ma guarda, io non credo che sia un falso, se le vuole le dico anche le ragioni. Poco tempo fa è stato pubblicizzato su tutti i canali di informazione e su tutti i giornali, i canali televisivi, che qualcuno era riuscito a riprodurre la sindone nelle sue caratteristiche essenziali. Ma non è così. A parte la grossolanità del risultato, si è finiti sempre nello stesso punto, e cioè esiste un divario tra le immagini corporee e le macchie di sangue, nel senso che le macchie di sangue vitali, quelle versate dall'uomo della sindone prima della morte, sono, come dire, versate prima della produzione delle immagini, perché al di sotto i fili non mostrano tracce di immagine. Con questa premessa esiste uno scostamento topografico, nel senso che man mano che dal centro si allontana alla periferia si vede che la legge di disposizione è diversa. Le macchie rappresentano materialmente quella deformazione che si ottiene se si raddrizza una superficie curvilinea. Il volto tutto sommato è come una colonna, le macchie di sangue si sono versate, se noi raddrizziamo il tessuto, la produzione tessile che era a contatto, vediamo che c'è una sorta di allargamento, tipo quello delle macchie di micene. Invece le immagini delle parti anatomiche, hanno interesse in questo caso del volto, hanno una proiezione lineare, quindi c'è un piccolo scostamento, ed è lì che abbiamo un momento che non è stato fino ad ora riprodotto, che a parte le difficoltà di falsificare una immagine lunga 4 metri e non c'è mai riuscito nessuno, mostrano una discrepanza tra due elementi fondamentali che non è stata e non mi risulta sia falsificabile. Questa è una delle tante ragioni per cui ritengo che il lenzuolo funerario dell'uomo della sindone sia una realtà archeologica e non un artefatto. Una realtà archeologica che, se l'interpretazione, dopo questi studi che vanno avanti da vent'anni, di questi cartigli posti nella parte esterna sul volto del telo che copriva il condannato dovesse essere confermata, certamente sarebbero anche con un grande passo in avanti ulteriore, che si tratta proprio di quel corpo lì, in quella data lì, deposto a quell'ora lì, dalla sua croce. E col professor Massimo Miglietta, che ci ha raggiunto telefonicamente adesso, dopo le informazioni sulla circolazione stradale, un minuto di informazioni sulla circolazione stradale, ci chiederemo se questa interpretazione dei cartigli è pienamente coerente a come funzionava all'epoca la procedura dei processi per quel tipo di imputazioni in una provincia come quella all'epoca della Palestina. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte della nostra puntata di oggi, dedicata all'approfondimento insieme all'autrice, che è la professoressa Barbara Frale, di quanto attestato nel questo suo ultimo libro. Si chiama La Sindone di Gesù Nazareno, edizioni Il Mulino. Ripeto, La Sindone di Gesù Nazareno. Chi fosse interessato agli approfondimenti precedenti della professoressa Frale intorno alla continuità storica del telo sindonico come reperto che quindi viene identificato a questo punto nei diversi luoghi di permanenza attestati e con l'iconografia che ne attesta secolo per secolo la permanenza lì, e il libro precedente era I Templari e la Sindone di Cristo, sempre del Mulino. Allora, professor Massimo Miglietta, lei insegna docente, lei è docente di istruzione di diritto romano, è insomma uno dei fari luminari nell'Accademia Italiana di oggi. Le chiedo con grande semplicità, l'ipotesi di questi cartigli posti da una specie di ufficiale dello Stato civile pubblico nella Palestina dei primi anni del primo secolo d.C. in caso di una in necem condanna a morte eseguita per un procedimento per il quale il governatore raccoglie quella che nel testo in aramaico ci ha detto la professoressa Frales sarebbe stata una richiesta, una segnalazione, un inizio di procedura da parte del Sinedrio, quindi l'organo che rappresentava il consiglio intorno al sommo sacerdote nel Tempio di Gerusalemme, con tanto di poi apposizione di un altro cartiglio nella quale si dice l'ora di deposizione coerente alle norme rituali dell'ebraismo dell'epoca, di deposizione dal corpo della croce, l'identità in greco piuttosto che nelle altre lingue, ma in greco invece del fisica del corpo lì deposto, e anche la disposizione temporale dei 12 mesi nel quale quel corpo, che avrebbe dovuto essere custodito in un sepolcreto pubblico proprio perché a seguito della sua condanna a morte per quell'ipotesi di delitto non aveva diritto a essere sepolto insieme ai suoi familiari, ma invece andava per almeno un anno, per norme rituali, messo in un sepolcreto pubblico e non di famiglia, prima che poi i suoi familiari potessero chiederne invece il recupero una volta mondato dall'impunità, ma per poter essere ricongiunto alle sepolture di famiglia. Tutto questo, professor Miglietta, è coerente con quello che sappiamo di come si svolgevano le procedure del processo romano dell'epoca e le procedure anche amministrative di questa specie di passaggio documentale burocratico che avviene, oppure no? O c'è qualche incoerenza dal suo punto di vista? Allora, buongiorno dottore, agli ospiti e agli ascoltatori. La sua domanda è una domanda molto complessa e la risposta deve essere articolata per quanto insomma veloce. La prima considerazione da fare è la seguente. In ambito di diritto criminale, di processo criminale nell'epoca imperiale, quindi l'epoca di Tiberio sostanzialmente, quando è stato celebrato il processo a carico di Gesù di Nazareth, noi abbiamo tanto una trasformazione continua del modello processuale. Abbiamo un modello che si applica a Roma, che tutto sommato è quello delle questioni perpetue, in realtà delle corti permanenti, e poi con una distinzione insomma un poco netta, quella che era la prassi provinciale, perché non dobbiamo dimenticare che Roma è un impero universale, almeno per i confini allora conosciuti. In ogni zona probabilmente i governatori provinciali, in ogni provincia i governatori applicavano per analogia quello che era il modello di Roma, il modello della sede imperiale, con degli aggiustamenti dovuti alla realtà. Roma è estremamente concreta, pratica, pragmatica, sempre, dovunque, in ogni ambito, compreso quello del processo e soprattutto del processo criminale. Quello che possiamo dire con una certa ragionevolezza, se non con la sicurezza lo storico non ha mai la certezza, e anche lo storico del diritto, è che sicuramente nella Palestina dell'epoca c'era una compenetrazione di competenze, una collaborazione tra quelli che erano gli organi locali e il magistrato rappresentante dell'imperatore. Per quelli che sono stati i miei studi, io ritengo, ma non solo io ovviamente, anche altri che se ne sono occupati, è che di fatto al Sinedrio fosse riservata una funzione, noi potremmo dire così con una terminologia dogmatica moderna, la funzione di giudice istruttore, cioè colui che ha notizia del reato, raccoglie le prove e, valutate le stesse, deferisce l'imputato medesimo al giudizio del magistrato romano, in questo caso il prefetto di Giudea, Ponzio Pilato, al quale, titolare del cosiddetto ius gladi, cioè del potere delegato dall'imperatore di emettere sentenze di morte a carico sia dei cittadini romani e a maggior ragione dei sudditi locali che cittadini non erano, resta appunto il potere, è titolare del potere di emanare le sentenze di morte. Questa collaborazione, almeno nel caso specifico del processo Gesù, avrebbe portato a una valutazione di quella che era stata l'attività di predicazione di Gesù di Nazareth, nei termini appunto, come è stato già accennato, della imputazione della lesa maiestas, quindi della sobillazione, ovviamente ideale, non con le armi, questo va da sé, ma per l'epoca non c'era distinzione, soprattutto dicono le fonti letterarie per quanto riguarda l'epoca appunto di Tiberio, non c'era distinzione tra reato ideale e reato concreto, bastava l'intenzione. Negli certo. Anni di Seiano erano anni terribili per l'impero. Terribili. Esatto, cioè Barabba e Gesù che vengono messi davanti al popolo, in realtà hanno la stessissima imputazione dal punto di vista del diritto romano e anche della sensibilità, per quanto sensibile potesse essere il magistrato, il prefetto di Giudea. Cioè entrambi sono imputati di uno stesso reato, che è la lesa maiestas, la sobillazione, il sovvertimento dell'ordine pubblico. Uno cruento, l'altro ideale, ma non c'era molta, ripeto, non c'era molta differenza. Una valutazione che dal mio punto di vista il Sinedrio fece anche con riferimento al risvolto religioso dell'imputazione stessa, legata cioè alla predicazione, diciamo, messianico-profetica di Gesù, perché la conclusione a cui io sono arrivato nei miei studi è un po' la seguente, cioè che Gesù sia stato considerato imputato di un reato plurioffensivo, cioè la sua predicazione, il suo dichiararsi a titolo del tutto originale Messia e per un certo nesso logico indirettamente anche re di Israele, re dei Giudei, ha portato a ritenerlo blasfemo per la religione ebraica e attentatore alla maiestas, alla maestà dell'imperatore per quanto riguarda l'ordinamento romano. Per arrivare alla sua domanda, mi scuso per questa ampia digressione. No, prego, ma come vede la radio è bella proprio perché consente approfondimenti che la televisione non consente. Quindi. Era indispensabile, insomma. E siamo sempre nell'ambito della prassi. Ora, che il Sinedrio abbia deferito Gesù a Ponzio Pilato, non vi è dubbio. Che lo abbia proposto per quelle imputazioni che già la dottoressa Frale ha ben evidenziato, il Vangelo di Luca è quello che meglio ci dà l'indicazione delle imputazioni, la più compiuta, e sicuramente il Vangelo più informato, lo dice in premessa, no? Ho cercato, ho valutato le fonti, le ho analizzate, eccetera. Non si può affatto escludere che a livello di prassi ci fosse una documentazione, quantomeno come lo stesso Luca evidenzierà negli Atti degli Apostoli, e lo stesso autore che li scrive, o meglio la stessa scuola di pensiero, c'è per esempio una documentazione per quanto riguarda il processo a Paolo di Tarso, un elogium che viene appunto inviato al magistrato competente. L'elogium, lo ricordo per chi non è esperto di diritto romano, era il rapporto praticamente che alla fine dell'istruttoria, o meglio l'ufficiale di polizia giudiziaria faceva perché poi il giudice fosse messo, perché altrimenti l'elogium capisce che chi è che è a casa pensa che sia un'altra cosa. Certo, l'elogium come narrazione, come verbale, narrazione insomma dei fatti processuali e all'occasione anche indicazione del provvedimento preso dal magistrato. I bei tempi in cui si studiava obbligatoriamente diritto romano per diventare, perdoni se lo dico, ma perché capisce che era una reminiscenza nel mio caso. Benissimo. E quindi da questo punto di vista non credo si possa escludere la presenza, così a priori, la presenza di documenti scritti nella fase della sepoltura. quello che posso dire personalmente, insomma, di questo libro che ho letto e ho cominciato a rimeditare, è proprio che mi sembra un'opera di svolta e di snodo sugli studi, perché a me, che insomma, sono circa 25 anni che studio il tema della tesi di laurea, e richiede un azzeramento e proprio una rimeditazione delle conclusioni a cui ero giunto. E grazie anche al professor Miglietta. Torniamo alla professoressa Frale, che abbiamo fatto parlare nella prima mezz'ora e poi ci ha solo ascoltato, e sa Dio quante gliene abbiamo provocate di sussulti per le domande che non ho fatto e per quello di cui non abbiamo parlato. Professoressa, una domanda alla fine però che viene da molti nostri messaggi di ascoltatori, e mi rendo conto che è esterna al circuito proprio del libro, però bisogna tentare di dare una risposta, perché altrimenti molti non lo leggono perché pensano che sia un'opera, per così dire, di propaganda religiosa. Non è così, e lo dico per la centesima volta a chi ci ascolta. Però molti chiedono: ma questi caratteri, se erano di cartigli, di documenti appoggiati o apposti sulla parte esterna del telo, corrispondente al volto, intorno al volto, come ha spiegato lei, come si sarebbero impressi? Alcuni dicono nel così breve volgere di tempo prima dell'evento, qualunque esso sia stato, che ha portato poi all'impressione della fisicità di quel corpo nel telo, perché molti sanno, ed è così, che il telo non reca traccia della decadenza corporea di quel corpo, e quindi qui c'è il grande interrogativo, che non ha a che vedere con temi di cui parliamo oggi, del che cosa ha, per così dire, reso possibile il trasferimento dell'immagine delle macchie di sangue del corpo tridimensionale, come ci ha detto il professor Mabalone, sul telo. Ma molti chiedono come in quello spazio di tempo così breve si sono fissati quei caratteri nel telo. Allora, guardi, in realtà noi non sappiamo con precisione quanto tempo hanno impiegato questi agenti chimici che hanno permesso il trasferimento della scrittura per lasciare appunto l'impronta delle scritte. Noi sappiamo che qualcosa, probabilmente gli ioni di metallo contenuti nell'inchiostro di questi cartigli, ha interagito con questo fenomeno ignoto che ha provocato la formazione dell'immagine, ma noi non siamo affatto sicuri che nel momento stesso in cui si è formata questa immagine già si vedesse la scrittura trasferita. Di fatto il paragone più pieno e perfetto noi lo abbiamo nel caso delle antiche carte d'archivio. Le faccio un esempio: in archivio si usa mettere l'una sopra l'altra delle lettere manoscritte che possono essere, non so, di 3, 4, 5, tanti secoli fa. Rimanendo a contatto l'una con l'altra, queste scritture subiscono un fenomeno chimico-fisico particolare legato al fatto che gli ioni di metallo presenti nell'inchiostro interagiscono con la cellulosa che forma la carta. E questo in qualche misura quindi sarebbe anche ciò che è avvenuto di queste scritte che leggiamo sulla Sindone con questa interpretazione. Leggete questo libro, io sono molto colpito che ne ha parlato solo Repubblica, non c'è un solo cavolo giornale italiano che dedichi a questo libro l'importanza del reperto scientifico che testimonia agli occhi di tutti, credano o non credano. Ripeto, la Sindone di Gesù Nazareno, Il Mulino, la professoressa Barbara Frale, grazie a voi, e noi ci sentiamo, tornando a un tema un po' la prossima puntata un po' più delicato, perché guadagniamo tutti così poco. Grazie, la linea al giornale radio. 9 in punto, la versione di Oscar.